Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. E benvenuti anche a questa puntata di Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon, che oggi presenta questo menù. Innanzitutto l'intervista di Morena Moretti a Sandro Romildo, che è stato da ragazzo compartecipe all'esperienza di Pagliarini, quindi coinvolto nella costruzione dell'Arci Ragazzi, che nasce nel 1980 e poi dopo man mano si è imposto come dirigente importante, oggi in qualche modo un punto di riferimento dell'associazione. Quindi tramite Sandro Romildo potremo in qualche modo rievocare la figura di Carlo Pagliarini, figura così importante prima nel Pioniere, poi nell'Arci Ragazzi. Quindi faremo una sorta di irruzione, ride, nella Radio Art, che è la radio della scuola di Busto Arsizio, liceo artistico-scientifico, che ha lavorato sul Pioniere, e quindi vedremo quali sono le interazioni tra ieri e l'oggi, tra l'educazione di ieri e l'educazione di oggi, indagando in questo terreno. Sempre da queste incursioni su Radio Art andiamo anche a recensire una mostra molto importante di quest'estate, ahimè maturato durante il lockdown, quindi in qualche modo deprivata di grande afflusso di persone, ma non per questo meno rilevante, ovvero sia la mostra delle copertine nate tra Rodari e Munari, che sicuramente è il suo più grande illustratore. E infine dunque andiamo a parlare della storia di Neon Brothers con Alice Berti, fumettista, produttrice di graphic novel di qualità, che parla di questa generazione Z, ambientando il suo romanzo grafico in una Londra post-Brexit. Un'intervista raccolta da Rachele Copparoni, che come sempre ringraziamo per l'importante contributo. Quindi cominciamo subito con l'intervista, dopo uno stacco musicale brevissimo, di Morena Moretti a Romildo. Sandro Romildo, tu sei uno tra gli storici dell'Arci Ragazzi e proprio per questa ragione hai avuto modo di conoscere Pagliarini e forse anche di, insieme a lui, costruire questa associazione che ancora oggi è molto vivace. Ma io ho collaborato, che ero poco più che ragazzo, il progetto di Arci Ragazzi era sicuramente ben chiaro in Carlo e l'abbiamo invitato nel 1979 al Circolo Arci di Amelia, perché in quei mesi aveva promosso il progetto Ragazzi e nell'ambito dell'Arci Nazionale con Menduni, quindi l'avevamo invitato, è stato il primo contatto e l'inizio di una collaborazione che poi si è sviluppata fino alla fine, diciamo, della sua vita, diciamo, ecco. Quindi ho collaborato per quanto possibile con lui, certo. Quindi questi primi anni, diciamo, anzi proprio all'inizio di questa fondazione, Pagliarini veniva da questa esperienza dell'Associazione Pionieri d'Italia, poi per 10 anni penso che abbia lavorato appunto con l'Arci, e infine questa passione proprio per l'educazione e per la formazione dei più giovani non l'ha mai abbandonato, per cui l'Arci Ragazzi appunto nasce un po' su questa premessa dell'Associazione Pionieri, o c'è una propria, diciamo, originalità? Sicuramente l'esperienza dei pionieri per lui è stata un riferimento importante, però quando ha messo le mani al progetto Ragazzi, ha cercato di interpretare quei decenni che erano intanto passati, gli anni 60, gli anni 70, la fine degli anni 70, ha inventato un progetto Ragazzi, una e poi l'associazione Arci Ragazzi, molto più centrata sull'ascolto dei bisogni dell'infanzia, centrata sui percorsi di cittadinanza attiva dei ragazzi, delle famiglie, insomma un'associazione non ancorata a un progetto in qualche modo, diciamo, a un'ideologia, a valori, ma centrata sulla capacità di ascolto dei bisogni educativi e capace anche di dall'ascolto a dar corpo a una condivisione progettuale e ad azioni di cambiamento sia nel piccolo gruppo, nelle esperienze locali, ma anche ecco con un disegno nazionale più politico. Ecco, lui aveva questa capacità unica di mettere insieme l'intelligenza, la raffinatezza, l'attenzione particolare dell'educatore che ascolta, accoglie quella che è la domanda di gioco, di partecipazione, di socialità, la domanda di futuro che viene dall'infanzia, con un'idea anche del cambiamento possibile e del cambiamento agito, non pensato e rinviato ad altri, ma spingendo dal piccolo gruppo alla rete dei piccoli gruppi, alla rete nazionale per un progetto di cambiamento. Ecco, sicuramente c'è un ancoraggio forte a quegli anni 60-70 di cambiamento epocale, che a livello dell'associazionismo c'è stato un cambiamento radicale. Arci Ragazzi di Pagliarini ha dato corpo a questa progettualità volta al cambiamento. Questa esperienza dell'Arci Ragazzi è servita anche per un cambiamento, almeno un'informazione, diciamo, sulla scuola pubblica? Cioè, l'esperienza Arci Ragazzi ha influito anche su alcuni percorsi che la scuola pubblica in quegli anni ha intrapreso? Ma sicuramente nel pensiero di Carlo e poi nel programma dell'Arci Ragazzi, sicuramente Arci Ragazzi era centrata più nell'extrascuola, nell'associazionismo educativo del tempo libero, ma dentro però un'idea del sistema formativo integrato e con una visione, una consapevolezza che soltanto una forte correlazione positiva tra scuola e extrascuola, tra i bambini che si associano al territorio e danno azioni di cambiamento e percorsi proposti anche dall'associazionismo alla scuola, ecco, questa forte relazione sicuramente ha portato un po' la novità. Spesso la scuola ancora in quegli anni manteneva un po' tratti, almeno un carattere di chiusura, di mondo un po' a sé, e Arci Ragazzi invece puntava a una forte integrazione tra scuola e extrascuola, nella consapevolezza che l'associazionismo è una risorsa, ma che non è sufficiente, che può, ecco, invece essere messa a frutto dialogando e interagendo con la scuola. Camillo, un qualche ricordo particolare di Carlo nel tuo rapporto anche personale che hai avuto con lui, quindi come persona, come si presentava Carlo Pagliarini? Ma sicuramente aveva una capacità unica di intessere relazioni umane costruttive, e ecco, lui costantemente, diciamo nelle relazioni così personali ma anche nel percorso associativo, cercava di dar corpo all'ascolto e di interpretare dall'ascolto per la condivisione poi progettuale. Ecco, nel percorso dell'associazione questa sua capacità significava dar corpo ai percorsi per il riconoscimento e l'affermazione sostanziale dei diritti, ma insomma tra privato e pubblico, tra rapporti personali e rapporti sociali, educativi, politici, lui interpretava bene anche questa idea di un'umanità aperta, di una capacità, insomma di una coerenza. Non è che c'erano due sfere, la sfera privata e una sfera, quella associativa, del progetto, dell'azione di cambiamento. Tu nella relazione con Carlo già avvertivi che lui cercava di dar corpo a quel cambiamento positivo, a quelle relazioni costruttive su cui poggiare il cambiamento stesso, insomma.

Mi sembra un buon motto, dal bel suono democratico. Non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo. Insieme ad Alice Berti per parlare di Neon Brother, un fumetto uscito recentemente per Bao Publishing. Io direi di partire un po' dal principio. Che cosa racconta la tua storia? Quello che volevo raccontare io con Neon Brothers era principalmente poter mostrare quello che accade a noi giovani di 20-30 anni, che magari cerchiamo un lavoro e non veniamo presi seriamente, oppure siamo costretti a fare lavori sottopagati, cose così, perché è un po' questo il mondo di oggi. Quindi questo era il mio obiettivo principale. La storia però è ambientata in un'Inghilterra del dopo Brexit, in cui la gente, proprio perché non riesce a trovare lavoro presso delle grandi corporazioni che si occupano di tutto, di tutta la vita delle persone, sono costrette a fare a botte in strada. Come dicevi tu, appunto, presenti un po' la generazione X, la generazione moderna, quindi vivere senza certezze, senza un futuro, anche con poco ottimismo. Però se all'interno di questo percorso di vita si ha la fortuna di potersi affidare all'amicizia, all'amicizia vera, allora diciamo che questo diventa tutto un pochino più facile da superare. Un po' questo è quello che ci vuoi raccontare. Esattamente, hai colto il punto perfettamente. I protagonisti invece sono sei, diciamo, Anita, Dom, Murray, Nicolai, Lavanda e ovviamente anche l'immancabile Wakaba, e sono tutti fantastici, se ti posso dire, ma Grazie. soprattutto sono anche ben caratterizzati, sia nello stile, ma anche nel carattere. Come è avvenuto il loro processo creativo? Chi è nato per prima? Quando? Allora, la storia in realtà, prima ancora appunto che nascesse la storia, avevo Wakaba e Nicolai, che erano due personaggi che disegnavo un po' a caso nello sketchbook, così a tempo perso, diciamo. E poi da loro è nata la storia dei Neon Brothers. E di conseguenza poi sono nati tutti gli altri personaggi. E in realtà c'è un motivo per cui sono sei, cioè che volevo fare proprio metà ragazzi e metà ragazze, in modo che ci fosse una certa diversità e più persone potessero riconoscerci, sì. Quindi ci sono appunto tre ragazze, tre ragazzi, e ognuno di loro è diversissimo per carattere, per provenienza, per storie che hanno da raccontare e anche appunto fisicamente, proprio come hai detto te, proprio perché volevo che un lettore che lo legge, che legge il mio libro, potesse appunto pensare, vedere qualcosa di sé, insomma, anche nei personaggi che ho raccontato. Certamente, e per quanto riguarda invece lo stile proprio del disegno, ma anche del vestiario, che sono veramente anche lì molto caratterizzati, a che cosa ti sei ispirata? Beh, le mie ispirazioni principali sono sicuramente Jamie Hewlett, che è uno dei miei autori preferiti, che è il creatore dei Gorillaz, Gorillaz, e poi ci sono tantissime influenze che prendo proprio a piene mani dalla moda, quindi dalle passerelle magari di Gucci, per i Neon Brothers soprattutto, perché mi piace molto la visione di Alessandro Michele, che è molto, diciamo, un po' pazza, ecco, e mi sembrava si adattasse bene ai personaggi dei Neon Brothers. Quindi, diciamo, sì, prendo molto dal mondo della moda. Un'altra delle ispirazioni, dei punti di riferimento a cui tu prendi ispirazione, è sicuramente la musica. Infatti tutta la storia è, diciamo, costellata da riferimenti musicali, già anche a partire dal titolo, giusto? Esattamente, sì, ha un certo ritmo, possiamo dire, la storia. Come ti influenza la musica nella scrittura? Beh, io ascolto musica mentre scrivo, mentre disegno, quindi durante tutto il processo creativo che mi porta a realizzare il libro. Però, cioè, io anche suono, e visto che comunque la musica per me è molto importante, però non mi sento così brava da poter aver provato a farci un lavoro, diciamo, ho provato a inserirla in quello che effettivamente è il mio vero lavoro, per poter compensare, diciamo, le due cose, due passioni che ho veramente, che sono molto importanti per me, quindi il fumetto e la musica. Certo, questa tra l'altro è la tua prima pubblicazione ufficiale, diciamo, il tuo primo graphic novel. Esatto, edito appunto dalla Bao Publishing. E com'è stata questa esperienza? È stato molto bello e difficile, ovviamente, perché comunque è un libro bello grosso, cioè sono circa 200 pagine e non mi ero mai cimentata con un'opera così lunga prima. Però sicuramente dà molte soddisfazioni, anche perché con una casa editrice come Bao il libro raggiunge più persone e posso avere anche più feedback da persone diverse, e questa cosa mi piace tantissimo. Questa settimana è tutto, quindi l'appuntamento alla prossima puntata, ricordando che per ascoltare questa trasmissione in podcast l'indirizzo online è www.radiocittafugico.it oppure www.ilpioniere.org. Ciao a tutti. Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro un balun. Che mondo sarà? Se ha bisogno di chiamare.